Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.08, Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, il dottor Confalonieri qui davanti a me che è una garanzia, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Andiamo al sommario? Senz'altro. Andiamo. Ballo, aerobica e pilates, tra mode e modi di mantenersi in forma. Concentrati a suon di musica. Emozioni da vivere senza paura. Dottor Confalonieri, si prepari perché oggi qui si balla, si fa aerobica, pilates, tre modi per sentirsi e stare in forma che sono state anche delle mode, dottor Confalonieri. Sì, diciamo che hanno caratterizzato o stanno caratterizzando, nel caso del pilates in particolare, diversi tempi della nostra vita, e in particolare i gusti e le preferenze femminili, diciamo, di un po' tutto il secolo scorso, il ballo che però è sempre di moda, ma una volta era un po' protagonista da solo, adesso sì, lo è un po' meno. Ha avuto degli alti e bassi. Gli anni 80 sicuramente, l'aerobica, lo step e quant'altro, e adesso queste ginnastiche più dolci che trovano il loro leader proprio nel pilates, che in questo momento è davvero la moda con la maiuscola. Sì, con la maiuscola. Avremo naturalmente delle testimonial sul ballo, lei poco ci dice. Io poco. Nel io senso sono che della non generazione da ballerino, lei generazione è della disco. Della disco music, John Travolta, queste infatti, cose qui. Un po' ci ha rovinato, perché poi il ballo a coppia, il ballo di sala non abbiamo per noi potuto non coltivarlo. Per noi non esistevano. Immaginarla esatto. Con una tutina da aerobica non voglio. Assolutamente no, però fare del pilates adeguatamente vestito sì. Sì, perché è anche adatto agli uomini. Assolutamente. Quindi è una puntata, cari amici, più al femminile, diciamolo. Sì. Però aperta anche agli uomini, anche se oggi vorremmo proprio dedicarci in particolare alle donne che ci ascoltano, parlare di loro, parlare con loro e sentire un po' chi prevale fra le nostre ascoltatrici. Fra le appassionate del ballo inteso in senso classico, dell'aerobica o dello step, piuttosto che del pilates. Allora, cosa preferite? Perché? E possiamo anche mescolarle, dare dei suggerimenti per accompagnare il pilates con l'aerobica o con lo step piuttosto che con una danza caraibica. Perché questa è sempre stata la nostra filosofia, integrare cose diverse sicuramente fa bene. Allora, fan del dottor Confalonieri, non perdete l'occasione, dategli questa soddisfazione, 800 24 0024, schieratevi, messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. A chi di noi non è mai capitato di canticchiare, magari al volante, quando si è in macchina in coda ad un semaforo, sotto la doccia? A me capita spesso, dottor Confalonieri, a lei? Canticchia? Poco, un po' troppo poco, perché mi farebbe bene. Le farebbe davvero bene, perché le aiuterebbe anche a concentrarsi. C'è una ricerca che lo dimostra e noi quando parliamo di ricerca e musica chiamiamo la dottoressa Erika Sibillo, che è esperta, oltre a essere medico, esperta di musicoterapia. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, signora Carbone, riprendo subito il dottor Confalonieri, ma come non canta? Bisogna che dia qualche esercizio da fare in più, perché oltre a ballare, che fa molto bene, è anche molto importante cantare. Senta, glieli dia subito questi esercizi, che così capisce e da dopo la trasmissione, magari anche subito dopo la diretta. Perfetto. Io metterei le mani avanti, perché se no mi licenziano. Allora, dottor Confalonieri e tutti i radioascoltatori, abbiamo sempre e spesso parlato di fare dei buoni e sani vocalizzi, ma la cosa più importante è cantate per sentirvi un pochino più felici, un pochino più sereni, e del resto noi cantiamo quando siamo felici e lo canteremo anche per diventarlo sempre di più. Ma ritornando adesso alla ricerca di cui lei accennava prima, oggi sappiamo che cantare serve anche per rimanere molto più attenti, e lo hanno dimostrato i ricercatori dall'Inghilterra, e sono andati a studiare per l'appunto gli automobilisti, cioè hanno preso 2000 guidatori di automobili e da questi si è risultato che ben il 63% di tutti quelli che non avevano avuto incidenti negli ultimi 4 anni erano guidatori che amavano cantare mentre erano al volante o comunque, diciamo, a cui piaceva ascoltare della musica rilassante. Ma questo gli psicologi dell'Università di Sheffield, appunto in Inghilterra, l'hanno spiegato con la stimolazione che il nostro cervello, e guardate che contemporaneamente viene stimolato anche tutto il nostro corpo, questi stimoli ci permettono di essere molto più attenti, andando proprio a stimolare quella parte del cervello che è l'emisfero di destra, che permette di essere più creativi e aumenta il ragionamento cosiddetto spazio-temporale, ovvero saremo più concentrati e saremo anche più vigili. Ma abbiamo spesso detto che cantare anche migliora la nostra ossigenazione, il respiro diventa più profondo, le nostre tensioni si riducono, e quindi ascoltare una buona musica, o meglio canticchiare anche delle canzoni magari non troppo impegnative e sicuramente di cui magari si conoscono le parole a memoria, permette anche di dare il tono giusto a tutta la nostra giornata. Pensate che qualcuno l'ha definito anche una sorta di caffeina sonora, come se ci prendessimo un bel caffè cantando, o qualcuno l'ha definita anche una salutare vitamina C, che in questo periodo sicuramente aiuta. Bene ci e fa. Infatti noi, a proposito di canto che aiuta a concentrarsi, noi proprio attraverso il canto aiutiamo i nostri ascoltatori a concentrarsi sulle regole di prevenzione per l'influenza A con la nostra iniziativa Influenza A, te la canto e gliele suono, così stiamo anche più attenti. Un'iniziativa straordinaria e sono molto felice di notare questa grande sensibilità che Radio 24 ha mostrato e mostra verso gli effetti benefici della musica. Poi io sono sostenitrice assoluta di quanto faccia bene cantare, mi supportano anche tutti gli studi scientifici che dicono che il cantare stimola il nostro sistema immunitario, ovvero le nostre difese, guarda caso, anche proprio contro i virus. Allora, quindi andate ad imparare, così iniziate a canticchiare anche voi, ma lo state già facendo e siete tantissimi ad aver espresso la vostra preferenza sui nostri medici cantanti. Andate sul sito di Radio 24 e potete quindi votare la canzone che vi piace di più. Dottor Confalonieri, lei quale imparerà per prima, dato che abbiamo visto che deve assolutamente cantare, si concentra, si ossigena, si prende una sorta di caffeina sonora? Ma io normalmente preferisco cantare canzoni che invento al momento. No, questa non è una risposta diplomatica, ma davvero è così, e anche per quello forse che canto poco, perché in quel momento devo essere concentrato, quindi proprio parte qualcosa e magari esprimo dei pensieri canticchiando su un motivo conosciuto. Quindi non mi succede spessissimo, ma è raro che canti una canzone conosciuta. Però, dottoressa Sibillo, invece può essere lei a canticchiare uno dei motivi dei medici cantanti. Sicuramente come collega mi sento doppiamente coinvolta, allora potrei suggerire... Potrebbe prepararne una anche a lei. Ecco, magari vediamo un attimo cosa riesco a trovare tra l'archivio di tutte le opere liriche di cui io mi occupo, e quando i radioascoltatori avranno votato la loro, diciamo, il loro video preferito, la loro canzone preferita, io chiederò sempre in prestito alla mia opera lirica magari un aiuto, e perché no, di dare il suo contributo anche così per difenderci da questa nuova influenza che, insomma, in questo periodo ci sta facendo un pochettino tribolare. Infine vorrei dare un piccolo suggerimento, ritornando a prima sul fatto di quanto faccia bene canticchiare un motivetto. Quando siete in metropolitana, in treno, in aereo, se provate a canticchiare a bocca chiusa, raramente intanto vi dico che i vostri compagni di viaggio si accorgeranno di ciò che state facendo, ma vi assicuro che scenderete belli, tranquilli, rilassati, non sentirete le orecchie che vi ronzano per tutti i rumori circostanti. E se poi qualcuno vi guarda anche un pochettino in maniera un po' strana, voi spiegategli pure cosa state facendo, e chissà che magari in questo mondo così un po' troppo frenetico, magari un semplice esercizietto, consigliato bene anche al dottor Confalonieri, possa risolvere tante tensioni e preoccupazioni di cui ad oggi sembra proprio che non si possa fare a meno. Quindi se accanto a voi c'è una bella signora che canticchia a bocca chiusa, non abbiate paura, la dottoressa Sibillo. Ma sicuramente. Se invece c'è un omone con la barba che canticchia a bocca chiusa, sarà il dottor Confalonieri che inizia a fare le prove di voce. Dottoressa Sibillo, buona giornata a lei, grazie. Grazie anche a tutti voi. Pronto soccorso. Allora, invece torniamo ad occuparci di ballo, aerobica e pilates. Oggi parliamo di loro per conoscerle, metterli a confronto, capire anche a chi sono più indicati. Vogliamo anche mescolarli. Iniziamo subito dal ballo e iniziamo alla grandissima, perché in linea con noi abbiamo Samantha Togni. Ciao Samantha! Buongiorno a tutti, buongiorno, come stai? Noi siamo bene, il dottor Confalonieri sta benissimo perché è uno dei tuoi tantissimi fans, ammiratori. Sì, sì. Grazie, buongiorno dottore. Buongiorno. Adesso guarda, stiamo iniziando un restyling del dottor Confalonieri. Abbiamo iniziato e la dottoressa Sibillo vuole farlo cantare e inizieremo coi vocalizzi. Invece tu forse magari convinci inizierò anche lui a ballare. Sì, beh, con te guarda viene anche con una gamba sola a ballare. Però proviamo anche a convincere le persone che magari come me il dottor Confalonieri ai nostri tempi si usava un più la disco music, per cui ballavamo, no? Ci agitavamo come dei vermi impazziti da soli, adesso torna di moda il piacere di ballare insieme, di ballare in coppia, ed è un'altra cosa che i nostri nonni, voglio dire, ci insegnano, che ce ne abbiamo nella storia, voglio dire, ballare in coppia è sempre stato così, anzi forse prima la balera si utilizzava anche per trovare moglie o marito, no? Giusto? Certo. Ai tempi, tanti anni fa, oggi ovviamente le cose sono cambiate, ma il piacere di ballare insieme dovrebbe rimanere, dovrebbe essere qualcosa che ci dovrebbe rimanere, e a me è rimasto, e spero comunque che io con la mia disciplina e tutti i miei colleghi, insomma anche grazie alla televisione che abbiamo fatto lo spettacolo che insomma, ha riportato Ballando con le stelle, appunto abbia fatto vedere il piacere di ritrovarsi, di ballare in coppia, di scoprirsi insieme, voglio dire. Senti, dimmi la verità, perché secondo te anche io e il dottor Confalonieri, che insomma non siamo più giovanissimi ma siamo abbastanza giovani, possiamo ma assolutamente sì, perché innanzitutto per ballare bisogna cogliere il piacere del ballo, voglio dire, non bisogna fare, ovviamente uno si avvicina a seconda delle proprie possibilità, più sei piccolo più avrai possibilità, certo, di puntare in alto ovviamente, ma questo non vuol dire che ad una certa età, grandi, non ci si possa riavvicinare, non si possa cogliere il piacere del ballo, perché fondamentalmente alla base ci deve essere un piacere. Certo. Deve ballare e divertirsi. Ecco, perché è proprio noi oggi con il ballo mandiamo anche questo messaggio. Rimaniamo in forma divertendoci e socializzando. Andiamo a Udine, che c'è Luciano. Buongiorno Luciano. Buongiorno. Aspetti che abbasso la radio, ecco. Magnifico, si dice tutto, ma sono diventati anche dei tecnici i nostri ascoltatori. Beh, a dire la verità io sarei anche un tecnico, ma questo è un altro discorso. Allora, per il ballo, intanto confermo quello che ha detto la signora Togni, che come si apprezzo può? Come ballerina, sì. E quindi posso capirlo. Ballo dall'età di 6 anni, mi tengo in forma da quando avevo 6 anni, ho cominciato con la classica e ho finito con il caraibico, passando per la danza sportiva. Il fatto della socializzazione è una delle parti più importanti del ballo, perché in una società come la nostra, dove stiamo sempre seduti davanti a una tastiera, sì, o davanti a attaccati a un telefonino, come sono io in questo momento, e magari passiamo molto tempo in macchina perché siamo sempre in giro fermi, ballare, incontrare altre persone, toccarle anche fisicamente. Sì, è proprio la coppia che funziona. Il dottor Confalonieri vuole intervenire, Luciano, che così... Sì, volevo sottolineare 3 aspetti in favore del ballo, alcuni meno conosciuti, forse o meno ricordati. Sicuramente il ballo è importante perché consente di socializzare e consente il rapporto fisico con le altre persone, che è una componente che spesso ai nostri tempi dimentichiamo, abbiamo perduto. Poi c'è la componente divertimento, la componente musica, straordinariamente importante. L'esercizio fisico per dare benessere è importante che sia anche divertente, perché il divertimento garantisce continuità. E poi un ultimo aspetto. Il ballo ci consente di approcciarci gradualmente all'esercizio fisico, e questo spesso non ci pensiamo. Cioè, se siamo persone fuori forma, se siamo persone che non hanno mai fatto nulla, piuttosto che cominciare con un'ora di ginnastica, un'ora di aerobica, un'ora di palestra, un'ora di nuoto, cominciamo ballando. possiamo alternare momenti di attività con momenti di riposo, possiamo scegliere balli più o meno impegnativi, quindi possiamo progressivamente allenarci divertendoci. E questo credo che sia davvero, davvero significativo ed importante, perché non dimentichiamoci che il ballo è bello, è socializzante, è divertente, ma è anche faticoso e quindi allenante. Certo. Samantha. Sì. Allora, il dottor Confalonieri veramente ha fatto un quadro magnifico. Magnifico, davvero. Non ci sarebbe nulla da aggiungere, ma magari Samantha vuole sottolineare un dettaglio. Samantha. No, io sottolineavo il fatto, come mi dicevi, è per tutte le età davvero, è per ogni situazione, nel senso che sia le coppie di una certa età magari volessero ritrovare qualcosa, insomma, per condividere un momento insieme, ritrovare un nuovo interesse, ed è fondamentale, voglio dire, ad una certa età, dopo tanti anni di coppia, magari trovare si un interesse in comune. Si scende in pista. È giusto. Oppure per chi dovesse rimanere solo, perché purtroppo la vita a volte capita di rimanere solo, comunque anche in questo caso è importantissimo, perché andando così a ballare si può trovare compagnia, cioè si fanno nuove amicizie, si fanno nuove e perché no, magari si può trovare di nuovo l'amore a qualsiasi certo. età, e quindi è importante sia per i giovani, ma è anche tanto tanto importante per i grandi, secondo me. Ecco, è veramente, la danza non ha età, secondo me. Luciano, do a lei la parola, è come se si facesse un giro di pista con Samantha. In magari, pratica, magari, magari, magari, qua sono in tanti che dicono magari. Insomma, ecco, quindi merito a ciò che vale. Volevo dire un'altra cosa, sì. Una considerazione. Negli ultimi anni il fatto di andare a ballare è diventato ancora più salutare, se vogliamo dire, perché io sono un fumatore. Nelle sale, soprattutto negli anni scorsi, l'aria che si respirava non era sempre salubre. Sì. Ora che c'è il divieto di fumo nelle sale da ballo, la cosa... Per lei è come andare a fare dell'aerosol, eh? Praticamente. Grazie Luciano, buon ballo a Luciano, un abbraccio a Samantha Togni. Grazie, un bacione. Grazie per essere stata con noi. Allora, dottor Confalonieri, tocca andare a ballare, qua. Ci proviamo. Ma qualche volta capita. Allora, passiamo poi all'aerobica. Dottor Confalonieri, l'aerobica a me viene in mente già in fonda. Sì. Anche a lei. No, tanto per collocarla, abbiamo detto il ballo da sala, prima, dopo la guerra tutti ballavano, poi ha avuto delle alterne vicende, anche se le balere sono sempre state super frequentate, adesso negli ultimi anni il ballo torna anche tra i giovani. Ma diciamo che l'aerobica... ha avuto un ruolo straordinario, nel senso che negli anni 80 è servita per portare moltissima gente a fare sport, a fare esercizio fisico, e in particolare per portare moltissime donne a fare sport ed esercizio fisico da protagonisti. Diciamo che ha coinciso con un nuovo ruolo della donna nella società, indubbiamente. La donna ha cominciato a dedicarsi a se stessa e in quel momento è esploso l'aerobica. Quindi ha avuto un ruolo fondamentale per il benessere dell'universo femminile in genere. Poi forse l'aerobica da sola aveva più una funzione da apripista e non ce la fa, perché spesso la gente, dopo un po' che la faceva, dopo un po' di anni, dopo un po' che ci si dedicava, si è annoiata, si è stufata e ha dovuto cercare delle alternative. Però il suo ruolo di capofila, di apripista, è sicuramente fondamentale. Come sostenitrice testimonial dell'aerobica, ma non solo, abbiamo in linea con noi Jill Cooper, personal trainer, life coach e consulente di home fitness. Ti vediamo sempre in TV, Jill, ciao! Buongiorno, come state? Noi stiamo bene. Devo dire che al momento siamo fermi, immobili, ma ti promettiamo che subito dopo la diretta un po' di qualche esercizietto ce lo facciamo. Sì, io stamattina ho già corso, ho già saltato sul mio trampolino, ho già fatto i miei pesetti, insomma, io ho già dato oggi. Tu hai già dato. Dottor Confalonieri, lei? Oggi siamo circondati da gente in splendida forma, io sono un po' in difficoltà. Io devo dire che non ho fatto nulla, ho portato solo il mio cane al parco. Sì, non hai fatto ancora nulla. Ancora? È vero. Tempo, la giornata è lunga. Senti Gil, è vero, c'è sempre tempo. Ma Gil, allora, io ti trascino con noi, dopo i mercati e il meteo parleremo di aerobica, ma non solo, insieme a Gil Cooper, vediamo quali sono i vantaggi, chi può farla. e soprattutto come continuare a praticarla, con quale disciplina mescolarla. Il dottor Confalonieri gira ha detto, magari, ha fatto da apripista, ma magari poi nel tempo si molla. Allora, insieme al dottor Confalonieri, Jill Cooper, devo dire che siete proprio alle antitesi, vero? No, pensavo alle attività, a Jill, in tutto. No, vabbè, sono strani pensieri. 800-24-0024, restate con noi, intervenite, schieratevi. Danza, quindi ballo, aerobica o pilates, ci dicono, ci fanno notare un testa a testa tra ballo e pilates. Ma anche l'aerobica rimonterà, perché abbiamo come testimonial Jill Cooper. Jill. Adesso devo proprio lottare. Lotta perché siamo... devo difendere l'aerobica. E certo, allora, è vero che dopo un po' annoia? È vero che le sale in palestre si stanno svuotando dell'aerobica classica, questa è vera. Mm. Perché purtroppo, non lo so, c'è stato poco influsso di nuove idee, eccetera, eccetera. Però sì, io ho risolto questo problema. Sì. Perché tu, come il ben sai, ho scritto un libro sulle cellulite, di conseguenza mentre stavo facendo ricerca per il libro, sì, ho scoperto un piccolo trampolino che è un tappeto elastico. Sì. E ho cominciato a modificarlo, farlo diventare un giocattolo assai fantastico, non soltanto per le cellulite, ma per tutto il salute del corpo, perché è un allenamento cellulare. Sì. E adesso l'ho portato nelle sale della palestra. Infatti la mia tecnica si chiama Aerobic Accelerator System. Senti, l'aerobica c'è. Sì. Senti, con questo accento americano, dottor Confalonieri, lei come direbbe? Aerobic Accelerator System. Magnifico, io non saprei dirlo, va bene. Quindi molleggiando, un'aerobica molleggiata, diciamo. Si molleggia, si salta, si aggiunge la forza G, l'accelerazione su ogni cellula del tuo corpo, però la cosa più bella è che tutti amano a saltare, tutti. Certo. Dai bambini in su, ti fa sentire un bambino, non ti stressa le articolazioni, non è troppo coreografico, di conseguenza le persone non, per esempio, non devono avere paura se tutta la lezione va a destra e loro vanno a sinistra. Ecco, che era il mio problema. Dottor Confalonieri, lei cosa ne pensa? Beh, sicuramente interessante, c'è la dimensione del gioco, c'è la dimensione del divertimento, c'è questa dimensione dell'accelerazione che aumenta indubbiamente gli effetti. Ci vuole un minimo di attenzione su chi ha qualche problematica di equilibrio, ovviamente, sì, e soprattutto andando avanti con l'età possono esserci queste persone, e poi un minimo di attenzione per chi ha problematiche a livello della colonna, perché comunque c'è un minimo di sovraccarico se non si riesce a gestire gli impatti con attenzione. Jill. Questo è assolutamente vero, e io infatti ho aggiunto una barra di stabilizzazione per chi è, diciamo, più verso la terza età, sì, e non ha ben allenato il sistema propriocettivo o il sistema vestibolare. Certo. Si abitua abbastanza velocemente, insomma il fisico si condiziona, si adatta in più o meno 3 lezioni, e è vero, si deve stare molto attento del controcolpo del tappeto, però è una questione ovviamente a noi insegnanti a insegnare come si fa. Sì, esattamente. Come si può ammortizzare con la catena cinetica che serve le gambe, le ginocchia e le caviglie. Antonella ci scrive: aggiungete la musica all'aerobica, e quindi è anche vero, però tanto l'aerobica c'è sempre con la musica, per cui e forse anche un po', secondo me, imbarazzante dell'aerobica era, almeno io avevo ai tempi, avevo messo dentro il naso e vedere tutte queste queste donne perfettamente curate, tutte con queste tutine combinate eccetera, io che arrivavo trafelata mi sentivo sempre un po' a disagio. Gilla, adesso è ancora così? Ma guarda, io, mia madre mi faceva svegliare a 12 anni alle 6 di mattina per fare ginnastica con Jane Fonda, cioè io sono proprio la figlia di Jane Fonda con quel tutina a righe, ti ricordi? Sì, è certo che mi ricordo. Stancatissima, che arrivava a Punta Vita e tutto quanto. Che bella, guarda, che era. Adesso magnifica. Si può tranquillamente andare in palestra con la tuta, le persone sono molto più elastici e molto meno voglio dire classista in palestra. Devo dire che la gente adesso si è capito, si deve entrare in palestra per sudare e per ottenere un beneficio fisico, non è più soltanto per andare a farsi quindi vedere. Anche questo lato è un po', insomma, il problema di entrare in una sala dove ci sono tutte le donne perfette, tutte coordinate, è superato. Quindi possiamo andare anche noi un po' scarciofati. Senti, voglio dire che non tutti sono perfetti e che ognuno, guarda, la perfezione non esiste, che ognuno dovrebbe veramente concentrarsi sulla strada, non sul traguardo, e di conseguenza amarsi com'è. E poi questo porterà più beneficio nel tempo. Allora, con tetto alto, perché se tu stai facendo qualcosa per il tuo corpo, entri fiero di te stesso in palestra e fregatene delle persone che tu pensi potrebbero giudicarti. Magnifica. Allora, Jill, speriamo che con il tuo intervento l'aerobica guadagni tra le vette della nostra piccola Hit Parade. Qualche messaggio in più a favore dell'aerobica è arrivato. Grazie, Jill. Grazie Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio. Ciao. Ma il Pilates resta in testa, e testimonial del Pilates, la mia preferita, Paola Saluzzi. Ciao Paola, stai vincendo. Paola, stai vincendo. Buongiorno, buongiorno tesoro. Innanzitutto sto vincendo perché sono in trasmissione con te. Partiamo da questo presupposto. E quindi già la mia giornata, lo dico a tutti i radioascoltatori, ha preso un'altra piega, come tutti i radioascoltatori che si sintonizzano su Radio 24 con Nicoletta Carbone, perché poi stiamo tutti meglio. Grazie. Hanno tempo al pomeriggio di andare su, su Sky TG24. Comunque, siamo amiche, ci siamo sostenute. Ecco. Parliamo di Pilates. Allora, il Pilates è quella meravigliosa cosa che, contrariamente all'intervento fantastico di Gil che ho appena ascoltato, ti permette di ripristinare veramente una buona armonia fisica senza faticare troppo. Allora io faccio l'elogio del pigrone, nel senso che per essere riuscita a smuovermi io, a pensare di andare in una palestra e a pensare di fare movimento in questa maniera, che, attenzione, non è un feroce o comodo dormire su un divano, però è un lavorare con la muscolatura, con il corpo, in un'accezione più dolce, diciamo così, meno il corpo, il fisico, la muscolatura è meno sollecitata a dover faticare ed è più sollecitata viceversa a doversi mettere in riga, quindi è una sorta di allenamento lunghissimo il Pilates, che offre però delle buone soluzioni. Senti Paola, ma i primi risultati quando si vedono? Si sentono, ecco. Quando non ne puoi più di andare in palestra, quando dici ma quando, caspita, li vedrò questi primi risultati, allora ti accorgi che, per esempio, lo dico, ma ribadisco Nicoletta, l'ho già detto in più occasioni anche proprio sicuramente con te, io sono una sorta di pigra storica, insomma, quindi è come aver detto un per gatto questo soriano, ci piaci per... un gatto, tesoro mio, un gatto soriano sulle mura del Colosseo ad aprile quando c'è il sole, muoviti. È stato una specie di capolavoro. I risultati arrivano perché cominci a vedere, per esempio, ti spunta la tartarughina sulla pancia. No, dottor Confalonieri, magnifico, la tartarughina. Questo è già un risultato che arriva dopo un pochettino. Io credo che tutto sommato si possano vedere dei risultati anche abbastanza presto, perché alla base del Pilates c'è proprio il concetto di ginnastica posturale e di riequilibrio muscolare, cioè si va a lavorare su quelle catene muscolari, sugli equilibri che sono poco utilizzati o che sono poco rispettati in quelle che sono le nostre attività quotidiane e spesso in quelle che sono anche le attività sportive quotidiane. Quindi il Pilates è perfetto come attività sinergica a tutto ciò che facciamo nella vita quotidiana e anche a qualsiasi altra attività sportiva, proprio perché va a riequilibrare la nostra struttura scheletrico-muscolare. Allora, insomma, Paola Saluzzi, come sempre, ha scelto bene, fa bene. Tesoro, io ti dico e do ragione al dottor Confalonieri, che nel frattempo saluto. Infatti i primi, io ho parlato di tartarughina perché quello è il visibile, no? Dove sta invece il grande valore? Nell'invisibile. Per esempio, a me è scomparso un dolore che avevo alla schiena. Vedi. Erano i muscoli che non stavano più lavorando, che si stavano mettendo in una posizione sbagliata. Eppure, Nicoletta, non sono una che riesca ad andare 3 volte a settimana in palestra, attenzione. Quindi, penso che le persone che abbiano la forza e la volontà volontà di dare ancora di più da questo punto di vista, possano ottenere risultati molto molto positivi ancora prima. Però ecco, il dolore alla schiena è scomparso perché i muscoli si sono rimessi in riga. E certo. Quindi quello non lo vedi tecnicamente. Però lo senti, però certo. Lo senti, ecco, lo senti come, siamo sinceri, senti un acciacco di meno, ma di questi tempi è già un valore. Un no? Po' di Pilates in più per un acciacchino di meno. Devo dire che continua a salire, i nostri ascoltatori continuano a mandare messaggi sul Pilates, ma Paola anche di complimenti a te, quindi alcuni hanno tralasciato il Pilates per parlare di te, te li leggerò, dottor Confalonieri. No, è proprio questo è il rischio che c'è in questo momento, siccome è un'attività di moda. Cosa, di parlare bene no, di Paola Saluzzi? No, il rischio è evidenziato dal numero di messaggi che stiamo ricevendo rispetto al Pilates. È un'attività di moda e quindi bisogna anche stare molto attenti a distinguere chi propone realmente il Pilates, chi è capace di proporre questo tipo di attività in modo adeguato e chi invece veste come Pilates le cose più svariate. O ancora chi pensa di poter fare Pilates per conto proprio leggendo un manuale piuttosto che guardando un video. Questo perché non si può fare. Non si può fare proprio perché è un'attività che agisce profondamente sui nostri equilibri strutturali e quindi proposta in modo inadeguato può essere anche pericolosa. Quindi, come sempre, quando un'attività è di moda poi usate si la rischia. Testa. Esatto. Paola, grazie per essere stato. Grazie a voi, Pilates lo fa la cantante Madonna. Però vi ricordo anche che il marito di Madonna è scappato perché gli non faceva mangiare merendine ai bambini, lei faceva mangiare solo miglio e orzo al marito, quindi sarà anche dimagrita, avrà anche i muscoli, ma mantenete i vostri mariti fidanzati. Però c'è una notizia buona, Paola, c'è una notizia buona perché vuol dire che è in circolazione del libero. Quindi diamo anche, grazie a Paola Saluzzi, grazie, ti vediamo su Sky TG24, un bacione, grazie. Grazie, finite, buona giornata. Daniela ci chiama da Como, buongiorno Daniela. Salve Nicoletta. Niente, noi siamo una coppia sposata ormai da quasi 30 anni. Questo è bene o male? Quello ormai da 30 anni è un segno più o un segno? Non lo so, bisogna chiedere a tutte e due. No, abbiamo iniziato con i nostri genitori, i primi passi. E dopo abbiamo iniziato ad andare a fare dei corsi. E tuttora lo facciamo, una volta a settimana usciamo. Tagliamo il tempo. Sarebbe il mio sogno. Riusciamo e ci fa bene. Sì, immagino. Ma qual è la vostra specialità, Daniela? Abbiamo iniziato con il liscio e adesso invece siamo con il latino, facciamo salsa. Ma vede, dottor Confalonieri, molti iniziano con i balli, insomma, un po' valzer, eccetera, come si chiamano quelli, Daniela, che lei è più tecnica? Balli da sala. E poi, il latino, perché tra i balli anche questo è più di moda. È quello che si diceva anche prima, però, proprio iniziare, il ballo consente di graduare lo sforzo, di iniziare con balli con un certo tipo di impegno e passare poi a balli ancora più impegnativi. E direi, proprio perché qui c'è una nettissima prevalenza di Pilates e ballo, direi che ormai sono aggiudicata, sì, che la nostra proposta finale potrebbe essere proprio integrare queste due attività. Intanto, cioè, scusi, un'attività di movimento, di coppia, di grande divertimento come il ballo, con un'attività individuale, più statica, di riequilibrio, come il Pilates, potrebbe davvero essere una ricetta vincente. Anche perché è individuale. Anche perché il Pilates, sì. E Daniela, è individuale il Pilates, e dopo 30 anni di matrimonio, no? Questo non è un aspetto da sottovalutare. Siamo anche messi sul latino perché c'è necessità di poco spazio per gli allenamenti. Ah, vede. Invece per ci vuole spazio, vede, questo dettaglio ci mancava perché il dottor Confalonieri, insomma, non è proprio un tecnico, però ci dice quanto e come il ballo ci può far bene. Daniela, grazie. Marco, buongiorno da Roma. Buongiorno, sì, complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Specialmente oggi in questo argomento così frizzantino. Bellissimo, ecco, volevo riportare la mia esperienza. Io sono un accanito sostenitore del ballo. Marco, ce ne fossero tanti come lei. Guardi, dove siete ballerini? Senta Marco, lei li balla tutti o ha una specialità? No, io ho cominciato qualche anno fa, così, trasportato da un amico. Andiamo a vedere, per curiosità. Sì? Mi sono avvicinato, mi è piaciuto. ho cominciato a frequentare anch'io corsi, sì, sempre con amici, e quando alla fine ci ho trovato anche la moglie. Oh, ma qua noi finiamo questa trasmissione con una storia a lieto fine. Dottor Confalonieri, lei la moglie ce l'ha già, però... Sì, potremmo lanciare anche questo messaggio finale. Per chi cerca compagnia, amicizia, soprattutto in chat, proviamo a farlo un po' meno in chat e un po' di più nelle sale da ballo. Fa bene alla salute e tutto sommato potrebbe essere anche un metodo migliore. Grazie a Marco da Roma, allora. Grazie a voi. E saluti sua moglie, balla anche lei, immagino, quindi. Sì, beh, ci siamo conosciuti lì, perfetto, e abbiamo cercato di mantenere e continuare. Mi piace molto. Dottor Confalonieri, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana con nuove avventure. Senz'altro, a venerdì prossimo a risentirci con tutti. Grazie, dottor Confalonieri. Adesso in chiusura di trasmissioni parliamo di paure, lo facciamo con Giovanni Allevi che è in linea con noi. Giovanni, ciao. Eccoci, eccoci qua, che bello essere con voi. Senza paura, Giovanni, tu però di paura hai parlato in prima persona, in un tuo brano che ha dato il titolo ad un tuo album, si chiama Panic. Certo, che Dio benedica il panico. Panico non è l'incontro con un vuoto paralizzante, ma è l'incontro con il nostro tutto, l'energia straordinaria che si sprigiona dentro ognuno di noi, che spesso ci fa paura. Dovendo affrontare il palco, il pianoforte, l'orchestra, ho sempre paura, ma è bello che sia così, è giusto avere paura. Siamo esseri umani, siamo imperfetti, siamo fragili. Senti, Giovanni, allora per scacciare la paura... tu quale brano consigli? Scacciare la paura o, come dici tu, apprezzare della paura il lato positivo, che è quello di farci affrontare la vita con coraggio, determinazione, dire ce la puoi fare. Vincere la paura significa anche avere la forza di buttarsi, no? Di buttarsi, vivere anche l'ebbrezza dell'insicurezza. Sono tutti elementi psicologici che io associo al brano Angelo Ribelle per orchestra sinfonica. Allora, Angelo Ribelle per vincere la paura o per prendere dalla paura quel buono che ci spinge un pochino a buttarci, a vincere la nostra insicurezza o, per dirlo in positivo, ad acquistare autostima. Sì, spero che almeno qualcuno di voi ci riesca, io faccio un po' difficoltà. Senti Giovanni, noi con Essere Benessere avremmo finito la nostra esplorazione, per fortuna però c'è anche questa casa non è un albergo, così riusciamo ad occuparci anche della sesta emozione e quindi domani io ti farei traslocare da Essere Benessere a questa casa non è un albergo e quindi ti aspetto a mezzogiorno giù di lì, quando tu potrai tra le 12 alle 12:45 per parlare, caro mio Giovanni, di rabbia. Tu sei un po' rabbioso ogni tanto? No, ecco, questo è il problema. Invece bisogna imparare ad esserlo. Grazie Giovanni, a domani. Grazie a voi, ciao. L'appuntamento naturalmente anche per voi, se volete seguirci, genitori all'ascolto, figli, questa casa non è un albergo, vi aspetta domani a mezzogiorno in compagnia anche di Alberto Pellai. Per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta Carbone. Radio 24. La passione si sente.